Dalle finestre di destra il mare si distingueva appena, ma quelle di fronte mostravano la valle sulla quale adesso era caduta la neve del chiaro di luna. Si sentivano a intervalli la voce di Morel e quella di Cottard. «Avete un autù?» «Yes!» «Ah, c'è roba assai buona lì!» disse a Morel, rispondendo alla sua domanda il signor di Cambremer, il quale aveva visto che il gioco del dottore era pieno di autù. «Ecco qua, donna di quadri!» disse il dottore. «Questo è un autù, non vi pare? Taglio e acchiappo!» Però aggiunse rivolto al signor di Cambremer, «Guardate che non c'è più nessuna Sorbona, c'è solo l'Università di Parigi!» Il signor di Cambremer confessò di non capire perché il dottore gli facesse questa osservazione. «Credevo che parlaste della Sorbona», riprese il dottore. «Vi ho sentito dire assai buona», spiegò strizzando l'occhio per mostrare che era una battuta. «Aspettate», disse indicando l'avversario, «ora gli preparo un colpo degno di Trafalgar». E doveva trattarsi per il dottore d'un colpo eccellente, giacché nella sua contentezza si mise a muovere voluttuosamente, ridendo, le due spalle, il che era in famiglia nella razza Cottard, un segno quasi zoologico di soddisfazione. Nella generazione precedente il movimento era accompagnato dal gesto di stropicciarsi le mani come per insaponarle. Lo stesso Cottard, da prima, aveva usato simultaneamente la doppia mimica. Ma un bel giorno, senza che si sapesse in virtù di quale intervento, coniugale o forse cattedratico, il movimento delle mani era scomparso. Persino giocando a domino, quando costringeva l'avversario a pescare e a prendere il doppio sei, cosa che costituiva per lui il massimo dei piaceri, s'accontentava del movimento delle spalle. E quando, il più raramente possibile, si recava per qualche giorno al suo paese natio, e rivedeva il primo cugino che era rimasto, lui, allo strofinamento delle mani, tornando, diceva a Madame Cottard: «L'ho trovato davvero ordinario, quel povero René». «Avete qualche coserella?» chiese girandosi verso Morel. «No? Allora gioco questo vecchio David». «Ma allora siete a cinque, avete vinto!» «Sì, signor». «Una bella vittoria, dottore», disse il marchese. «Una vittoria di Pirro!» esclamò Cottard, voltandosi verso di lui e guardandolo da sopra gli occhialetti per valutare l'effetto della sua battuta. «Se ce n'è ancora il tempo», disse a Morel, «vi concedo la rivincita. Tocca a me fare...» «No, ecco le carrozze. Sarà per venerdì e vi farò vedere qualcosa di decisamente sensazionale». I Verdurin ci accompagnarono fuori. La padrona fu particolarmente affettuosa con Saniette per essere sicura che tornasse il giorno dopo. «Ma voi non mi sembrate abbastanza coperto, ragazzo mio», mi disse signor Verdurin, cui l'età avanzata autorizzava l'uso di quell'appellativo paterno. «Si direbbe che il tempo sia cambiato». Queste parole mi riempirono di gioia, come se la vita profonda, il sorgere di combinazioni diverse che esse implicavano nella natura, dovesse annunciare altri mutamenti relativi questi alla mia vita e crearvi possibilità nuove. Bastò, prima di partire, spalancare la porta sul parco per sentire che un altro tempo occupava da pochi attimi la scena. Soffi freschi, voluttà estiva, s'alzavano nella betaia, dove un tempo Madame de Cambremer fantasticava su Chopin e quasi impercettibilmente, in meandri carezzevoli, in vortici capricciosi, cominciavano i loro lievi notturni. Rifiutai la coperta, che avrei accettata le sere successive, quando Albertine sarebbe stata con me, più per il segreto del piacere che contro il pericolo del freddo. Si cercò inutilmente il filosofo norvegese. Era stato colpito da una colica? Aveva avuto paura di perdere il treno? Un aeroplano era venuto a prelevarlo? Era stato rapito in una sorta d'assunzione? Di fatto era sparito, senza che nessuno facesse in tempo ad accorgersene, come un dio. «Fate male», mi disse il signor di Cambremer, «c'è un freddo cane». «Cane? Perché?» chiese il dottore. Attento alle soffocazioni, continuò il marchese. Mia sorella non esce mai di sera. Del resto la sua salute è piuttosto precaria in questo periodo. Comunque non restate così a capo scoperto, mettetevi subito il cappello. Non si tratta di soffocazioni a frigore, sentenziò Cottard. Ah, allora, disse il signor di Cambremer, inchinandosi, dal momento che, a vostro avviso, avviso al lettore, lo interruppe il dottore, facendo scivolare lo sguardo fuori dagli occhialetti per sorridere. Il signor di Cambremer rise, ma persuaso d'aver ragione, insistette. Eppure, riprese, ogni volta che mia sorella esce di sera, ha una crisi. È inutile cavillare, replicò il dottore, senza rendersi conto della propria scortesia. Del resto non esercito la medicina al mare, a meno che non mi si chiami per un consulto. Sono in vacanza qui. Lo era, del resto, più ancora di quanto non avrebbe voluto. Quando il signor di Cambremer, salendo con lui in carrozza, gli disse «Abbiamo la fortuna d'avere qui vicino, non dalla vostra parte della baia dall'altra, ma è così stretta in quel punto anche un'altra celebrità della medicina, il dottor Du Boulbon». Cottard, che di solito per deontologia s'asteneva dal criticare i colleghi, non poté impedirsi di esclamare, come aveva fatto davanti a me il giorno funesto in cui eravamo andati al piccolo casinò, «Ma non è mica un medico quello! Fa della medicina letteraria! La sua è una terapeutica da fantasista, da ciarlatano! Comunque siamo in buoni rapporti! Prenderei il battello per andare a trovarlo una volta, se non fossi costretto ad assentarmi!» Ma dal tono assunto da Cottard per parlare di Du Boulbon al signor di Cambremer, dedussi che quel battello sarebbe risultato del tutto simile alla nave che i dottori di Salerno avevano noleggiato per andare a distruggere le acque scoperte da un altro medico letterario, Virgilio, il quale anche lui gli portava via tutta la clientela, ma che affondò con loro durante la traversata. «Addio, caro Sagnet, mi raccomando, venite anche domani. Sapete che mio marito vi vuole molto bene, ama il vostro spirito, la vostra intelligenza. Sì, certo. Gli piace fare il burbero, ma non può stare senza vedervi. È sempre la prima cosa che mi chiede. Sagnet, viene. Ho tanto piacere di vederlo». «Mai detto niente di simile», dichiarò il signor Verdurin a Sagnet, con una franchezza simulata che sembrava conciliare perfettamente le parole della padrona e il modo con cui lui trattava l'ex archivista. Poi, data un'occhiata all'orologio, evidentemente per non protrarre i saluti nell'umidità della sera, raccomandò ai cocchieri di non fare tardi, ma di essere prudenti in discesa, e ci assicurò che saremmo arrivati prima del treno. Questo doveva depositare i fedeli, chi a una stazione, chi a un'altra, finendo con me, dato che nessuno andava più in là di Balbec, e cominciando con i Cambremer. Questi, per non far salire i loro cavalli di notte sino alla Raspellière, presero il treno insieme a noi a Douville-Fetern. La stazione più vicina a casa loro, infatti, non era questa, che già un po' distante dal villaggio, lo era ancora più dal castello, bensì la Sogne. Arrivando alla stazione di Douville-Fetern, il signor di Cambremer tenne a dare della moneta, come diceva Françoise, al cocchiere dei Verdurin, per l'appunto il simpatico, sensibile cocchiere dalle idee malinconiche, perché era generoso il signor di Cambremer e per questo aspetto era, come si dice, tutto sua madre. Ma, forse perché a questo punto interveniva il tutto suo padre, egli provava nel dare lo scrupolo d'un errore commesso. O da lui che, vedendo male, potesse scambiare, per esempio, un soldo per un franco, o dal destinatario che potesse non accorgersi della rilevanza dell'elargizione. Così la fece notare. «È un franco, non è vero quello che vi sto dando?» chiese al cocchiere, facendo scintillare alla luce la moneta e perché i fedeli potessero poi riferire la cosa a Madame Verdurin. «È così? Ecco qua, 20 soldi, visto che il tragitto era breve. Lui e Madame de Cambremer ci lasciarono alla Sogne. Dirò a mia sorella, mi ripete il marchese, che soffrite di soffocazioni. Sono sicuro che le interesserà. capì che intendeva dire «le farà piacere». Quanto a sua moglie, usò nel congedarsi da me due di quelle abbreviazioni che allora mi urtavano anche scritte in una lettera, sebbene vi sia poi fatta l'abitudine, ma che nel parlato mi fanno ancora oggi l'impressione d'avere, nella loro voluta negligenza, nella loro studiata familiarità, qualcosa di insopportabilmente pedante. «Contenta d'aver passato la serata con voi», mi disse. «Cordialità a Saint-Loup, se lo vedete». Dicendomi questa frase, Madame de Cambremer pronunciò «Saint-Loup». Non ho mai saputo chi avesse pronunciato così in sua presenza o che cosa l'avesse indotta a credere che si dovesse pronunciare così. Resta il fatto che per qualche settimana pronunciò «Saint-Loup». È un uomo che l'ammirava molto e faceva tutt'uno con lei. Vi si adeguò. Se qualcun altro diceva Saint-Loup, loro insistevano, dicevano con forza Saint-Loup. Vuoi per dargli indirettamente una lezione, vuoi per distinguersi da lui. Ma evidentemente qualche donna più brillante di Madame de Cambremer le disse o le fece capire indirettamente che non bisognava pronunciare così e che ciò che lei riteneva un'originalità era un errore per il quale la si sarebbe giudicata poco al corrente delle faccende del gran mondo, perché non molto tempo dopo Madame de Cambremer era tornata a dire Saint-Loup e il suo ammiratore aveva del pari cessato ogni resistenza, sia che lei lo avesse redarguito, sia che lui avesse notato come la marchesa non facesse più sentire la finale e ne avesse concluso che se una donna di tanto valore, di tanta energia e di tanta ambizione aveva ceduto, doveva avere le sue buone ragioni. Il peggiore dei suoi ammiratori era suo marito. A Madame de Cambremer piaceva fare dispetti, non di rado parecchio impertinenti. Non appena lei s'accaniva in tal modo su di me o su qualcun altro, il signor di Cambremer si metteva a guardare la vittima ridendo. Poiché il marchese era strabico, un difetto che dà una parvenza di spirito anche al buon umore degli imbecilli, l'effetto di quella risata era di riportare un po' di pupilla nel bianco, altrimenti totale, dell'occhio. Così una schiarita introduce un lembo d'azzurro in un cielo ovattato di nuvole. Il monocolo, del resto, proteggeva come un vetro su un dipinto prezioso la delicata operazione. Quanto all'intenzione stessa della risata, è difficile dire se fosse gentile. «Briconcello, potete dirvi fortunato. Siete nelle grazie di una donna di grande spirito. O caustica. Ebbene, signore, spero che avrete quel che vi meritate, ne ingoierete di rospi. O compiacente. Sapete, ci sono qua io. Prendo la cosa sul ridere perché è solo uno scherzo, ma non permetterò che vi si maltratti. O crudelmente complice. Non occorre che io rincari la dose, ma come vedete me la godo per tutte le cattiverie che vi sta prodigando. Rido a crepapelle, il che significa che io, il marito, approvo. Così, se vi saltasse il ticchio di ribellarvi, ve la dovreste vedere con me, signorino. Comincerei con l'appiopparvi un paio di ceffoni e sonori, dopodiché andremo a incrociare le spade nella foresta di Chantepie». A prescindere da queste diverse interpretazioni dell'ilarità del marito, i capricci della moglie finivano ben presto. Allora il signor di Cambremer smetteva di ridere, la momentanea pupilla spariva e, poiché si era persa da qualche minuto l'abitudine all'occhio tutto bianco, questo conferiva a quel rosso normanno qualcosa di esangue e al tempo stesso di estatico, come se il marchese fosse stato appena operato o implorasse dal cielo, dietro suo monocolo, le palme del martirio.